L'argomento della malattia coinvolge tutti, uomo-donna, credente e non credente, giovane-vecchio, ricco e povero. Tutti abbiamo sperimentato il risultato di un alterato funzionamento nell'organismo. La malattia è talmente comune che ormai, se non grave, la riteniamo una normale presenza nella nostra esistenza. Addirittura se un bambino non contrae certe malattie infantili, la cosa desta preoccupazione. E, bene dunque contrarre ad una certa età alcune malattie per vivere meglio e non contagiare altri. Anche il credente non è immune dalla malattia. Sembra una considerazione inutile e banale, ma molti credenti hanno una segreta convinzione che, essendo figli di Dio, abbiano il diritto di non soggiacere a certe malattie o sofferenze. Ho visto per televisione un'intervista ad una donna, una volta credente in Dio, che si professava atea perché non riteneva giusto ciò che gli era successo di negativo. Ma la parola di Dio anche su questo argomento è chiara e inequivocabile. L'uomo nasce per soffrire, come la favilla per volare in alto. Giobbe 5, 7. Poiché il credente è prima di tutto un membro dell'umanità, egli non può sfuggire a questa sentenza e deve soffrire come ogni altro essere umano. Nella scrittura troviamo l'esperienza di alcuni uomini di Dio che hanno avuto a che fare con la malattia, Eliseo e Paolo tra gli altri. Quella di Eliseo fu addirittura mortale. E quanto mai saggio quindi riflettere sul giusto atteggiamento da tenere nei confronti della malattia, sia per quanto ci riguarda, sia per aiutare chi si trovasse gravato da una sofferenza fisica. Consideriamo quindi la malattia sotto tre aspetti. 1. La condizione normale del cristiano è lo stato di buona salute. 2. La malattia è un modo di parlare di Dio. 3. Vi sono varie forme di guarigione, quali la guarigione naturale, quella mediante le cure, e la guarigione miracolosa. 1. La condizione normale del cristiano è lo stato di buona salute. Non si può affrontare l'argomento della malattia senza prendere in esame ciò che scrive Giacomo nella sua lettera. Qualcuno di voi è infermo? Chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore, e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo risanerà, e se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Confessate i vostri falli, gli uni agli altri, e pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia. Elia era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piovve sulla terra, per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo, e il cielo diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto. Giacomo 5, 14-18. Da questo brano della lettera di Giacomo, comprendiamo che ai suoi tempi i credenti di norma erano sani. Infatti egli chiese, qualcuno di voi è infermo? Sì, lo stato normale di una persona dovrebbe essere la salute, ma purtroppo certe malattie non vengono mai senza una causa. Come sta scritto, la sventura non spunta dalla terra, né il dolore germina dal suolo. Gli uomini hanno preparato alle malattie la via e le hanno chiamate con il trasgredire le leggi della salute. Invece, per il credente, per chi ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore e si è impegnato ad osservare il regime di vita che Dio gli ha indicato, lo stato normale è la salute. Le regole di Gesù Cristo sono per il benessere dell'uomo e per la sua felicità, e non, come alcuni affermano, una restrizione di essa. Con questo non si vuole intendere, come alcuni pensano, che i figli di Dio fedeli non si ammalino mai e che pertanto la malattia sia un giudizio di Dio. Anche se il credente è soggetto a malattie, nelle scritture e nel libro della natura, Dio ha rivelato i principi della vita, perciò è compito nostro procurarci le nozioni di questi principi e mediante l'ubbidienza cooperare con Dio nel restaurare la salute del corpo e dell'anima. Questo dimostra ancora una volta come Dio si sia preoccupato non solo di salvare la parte spirituale dell'uomo, ma anche quella fisica. Leggiamo le promesse con fede e riconoscenza. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Proverbi 3, 7 a 8. Figlio mio, queste cose non si allontanino mai dai tuoi occhi. Ritieni la sapienza e la riflessione. Esse saranno vita per l'anima tua e un ornamento al tuo collo. Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo piede non inciamperà. Quando ti coricherai non avrai paura. Sì, ti coricherai e il sonno tuo sarà dolce. Non temerai lo spavento improvviso, né la rovina degli empi quando verrà, perché l'Eterno sarà al tuo fianco e impedirà che il tuo piede sia preso in alcun laccio. Proverbi 3, 21-26. Figlio mio, fa attenzione alle mie parole. Porgi l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai dai tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore perché sono vita per quelli che li trovano. Guarigione per tutto il loro corpo. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Proverbi 4, 20-23. Il libro dei Proverbi non si limita solo ad ammaestrarci e a condurci alla saggezza, ma ha anche lo scopo di rendere la vita del credente più serena, più tranquilla, più scorrevole, e quindi più sana, anche fisicamente. Secoli prima Dio aveva fatto le stesse promesse tramite Mosè. Servite all'Eterno, il vostro Dio, ed Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua, ed io allontanerò la malattia di mezzo a te. Esodo 23-25. L'Eterno allontanerà da te ogni malattia, e non manderà su di te alcuno di quei funesti malanni dell'Egitto che hai conosciuto, ma li manderà su tutti quelli che ti odiano. Deuteronomio 7:15. Le leggi sociali, spirituali e civili di Dio avevano lo scopo di preservare il suo popolo da molte delle malattie che contraevano le altre nazioni. Attualmente in Africa, in Russia, nell'Est Asia e nel Sud America vi è uno smisurato aumento di certe malattie che si potrebbero evitare seguendo i principi morali espressi nelle scritture. Quindi, per prima cosa, se sei ammalato, verifica se la tua mancanza di salute non sia il risultato di qualche trasgressione al volere di Dio, ansietà, paura, ingordigia, sregolatezza sessuale, ira, affannosa preoccupazione, odio. Se il peccato è la violazione della legge di Dio, se si ha la salute, quando il corpo è in armonia con queste leggi, allora è probabile che tu stai trasgredendo qualche comandamento di Dio. Ricordati che forti tensioni quotidiane provocano l'ulcera, gravi coliti possono essere provocate da turbamenti emotivi, accesi, duelli verbali provocano alta pressione, il risentimento può produrre artrite, il fumo accresce il colesterolo nel sangue ed è la causa principale del cancro ai polmoni e di attacchi cardiaci letali, nonché provoca malattie degli occhi e cecità, la paura fa sorgere malattie come l'asma e la tiroide. L'ansietà può provocare la schizofrenia, l'abuso di alcol produce lentamente forme di atrofia cerebrali e la cirrosi epatica. Un dolore senza speranza, come la morte di un congiunto, può portare all'esaurimento nervoso. 2. La malattia è un modo di parlare di Dio. Se la malattia è una disarmonia del corpo, la cosa più saggia da fare in tal caso è di comprendere cosa non va. Dopo aver esaminato la nostra vita e se non risulta nulla di sbagliato che possa aver provocato la malattia, non facciamo drammi, soprattutto quando si tratta di malesseri che colpiscono di norma tutti. Se è vero che quando piove ci bagniamo tutti, se non prendiamo provvedimenti. Se è vero che quando fa terribilmente caldo tutti sudiamo. È altresì vero che quando vi sono delle epidemie di influenza, il credente non è esentato. Però la malattia è comunque sempre un periodo di riflessione. Le parole che Elihu rivolse a Giobbe sono sempre attuali. Ecco, Dio è potente, ma non disprezza alcuno. È potente nella forza della sua sapienza. Egli non lascia vivere il malvagio e rende giustizia agli oppressi. Non distoglie i suoi occhi dai giusti, ma li fa sedere per sempre con i re sul trono. Così sono messi in alto. Se però sono legati in catene e trattenuti in lacci di afflizione, allora mostra loro le opere loro e le loro trasgressioni, perché si sono insuperbiti. Punto egli apre così i loro orecchi alla correzione, e li esorta ad allontanarsi dal male. se ascoltano e si sottomettono, finiranno i loro giorni nel benessere e i loro anni nelle delizie. Se però non ascoltano, periranno per la spada, moriranno senza conoscenza. Ma gli empi di cuore accumulano ira, non gridano in cerca di aiuto. Così muoiono ancora giovani e la loro vita finisce tra i sodomiti. Dio lidera gli afflitti, mediante la loro afflizione, e apre i loro orecchi mediante la sventura. Giobbe 36, 5-15. Elihu prende atto che tutte le opere degli uomini sono esaminate da Dio. Per questo a volte Dio compisce i malvagi con la malattia, come leggiamo del re Jeoram. Dopo tutto questo l'Eterno lo colpì agli intestini con una malattia incurabile. Alcuni di questi, come Nabucodonosor, riconobbe che Dio ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. Altri non si ravvidero dal loro malsano comportamento. Elihu considera pure che anche i giusti possono trovarsi nei lacci di afflizione, e questo a causa della superbia. È evidente che non tutte le malattie sono causate dalla superbia, però Elihu non sbaglia. La superbia è congenita all'uomo, per cui ogni afflizione ha l'effetto di renderlo umile. Per questo Dio, mediante l'afflizione, libera l'uomo dal suo attaccamento morboso alle cose terrene, lo rende sempre più cosciente di essere fragile, lo rende capace di comprendere meglio il prossimo, stimola in lui la ricerca di un sempre più smisurato peso eterno di gloria. La malattia è dunque uno dei più antichi modi di comunicare che Dio usa con l'uomo. Come disse Gesù, non tutte le malattie sono a morte, ma alcune di queste portano a glorificare Dio. 3. Vi sono varie forme di guarigione. Alcuni figli di Dio sono confusi quando si tratta di parlare di guarigione. Gli abusi connessi con certe specie di riunioni di guarigione, la disperazione e il dolore di coloro che sono convinti che se solo avessero abbastanza fede sarebbero guariti, l'insegnamento dato da alcuni che è sempre la volontà di Dio guarire i malati, e l'apparire di guaritori in certe sette e religioni definite cristiane, confondono la fede di alcuni. La parola di Dio dà delle indicazioni molto semplici. Abbiamo letto che Giacomo, il fratello di Gesù a cento grave, propone al malato che cerca la guarigione di chiamare gli anziani della Chiesa. La malattia di cui parla Giacomo non è evidentemente un raffreddore o una faringite, ma una patologia il cui sbocco naturale non è la guarigione. Perciò occorre un intervento particolare. A proposito, possiamo ravvisare tre tipi di guarigioni. Guarigione naturale. La guarigione naturale si ha quando la salute torna con il dovuto riposo, con un sonno ristoratore. Un sano nutrimento, col rispettare le leggi naturali la cui trasgressione aveva prodotto il malessere. Non dobbiamo dimenticare che ognuno di noi ha ricevuto da Dio un certo capitale di forza vitale. Dio ci ha forniti di organi adatti a mantenere le varie funzioni della vita, e questi organi lavorano insieme armoniosamente. Se noi preserviamo con cura la forza vitale, noi teniamo in ordine il delicato organismo del corpo, questo corpo che si manterrà sano, vivo e vegeto. Quando la forza vitale è troppo rapidamente esaurita, il sistema nervoso è costretto ad intaccare le proprie riserve di energia. Quando un organo è offeso, tutti gli altri organi ne risentono. La natura tollera molti torti, senza far mostra di voler resistere, ma viene un giorno in cui essa cerca, con un determinato sforzo, di liberarsi dagli effetti del cattivo trattamento impostole. Così si ha quello che noi chiamiamo malattia o disarmonia. Sembra che questo aspetto si sia dimenticato. Perciò dobbiamo ricordare che il nostro corpo, dopo aver contratto alcune malattie, nel ritrovare l'equilibrio della forza vitale, ritorna in stato di salute. Per questo occorre solo aspettare pazientemente. Per questa ragione, le immediate preghiere per una immediata guarigione non hanno senso. Se sono punto da un'ape, è inutile che cerchi di annullare immediatamente gli effetti. Guarirò dopo che si è esaurito l'effetto del veleno contenuto nel pungiglione dell'insetto. Nel contesto di una malattia, spesso l'ateo ha un comportamento più opportuno del credente. perché chi pone fede in Dio spesso vede il Creatore come un oggetto da usare e non un soggetto da amare. Ma a parte questo aspetto di fede, sono giunto alla conclusione, e sono in buona compagnia, che troncare certe patologie non è affatto salutare. Guarigione per cura. Il nostro atteggiamento nei confronti della malattia può essere o di ostacolo o di aiuto per la guarigione. Sta scritto nel libro dei Proverbi che un animo sereno favorisce la guarigione, uno spirito depresso toglie la vita. Più che la malattia, quindi, dovremmo guardarci da un atteggiamento negativo verso di essa. Ci sono certe indisposizioni che passano con il tempo, ma ci sono anche malattie che devono essere curate. Perciò, mentre ci sono guarigioni che si risolvono naturalmente, altre avvengono con cura. Queste si hanno quando la salute è riacquistata con l'uso di rimedi tradizionali e non. Anche in questo caso occorre molta saggezza, perché a volte avremmo la guarigione anche senza uso di farmaci, con la differenza che sarebbe occorso più tempo per ottenerla, e forse si sarebbe sofferto di più. Alcuni credenti rifiutano l'ausilio del medico perché credono che la sola preghiera sia efficace per riversare su loro la potenza della salute fisica che procede da Dio, facendo affidamento in ciò che trovano scritto in 2 Cronache 16, e cioè che il re Asa si ammalò ai piedi, e la sua malattia era molto grave. Nella sua infermità però egli non cercò l'Eterno, ma ricorse ai medici. Sembra che il re Asa abbia peccato perché ha consultato dei medici. Ma ciò che è scritto va compreso. Il peccato di Asa non fu quello di rivolgersi ai medici, ma di rivolgersi a loro per rifiutare di cercare Dio. Il credente deve sempre confidare che sia Dio a guarirlo, e non le medicine o i medici. Affidarsi solo alle medicine o all'uomo è mancare di fede nella sovranità di Dio. Guarigione soprannaturale. Vi è anche la forma di guarigione mediante un intervento soprannaturale. E la forma di guarigione che Dio concede senza ingerenza dei mezzi naturali, ma direttamente con la sua onnipotenza. In questo modo, sia che la guarigione avvenga in modo naturale, sia che avvenga a seguito di cure, sia che avvenga in modo soprannaturale, il credente realizzerà ciò che dice il Salmo 41, 3. L'Eterno lo sosterrà sul letto d'infermità. Nella sua malattia, tu, o Eterno, trasformerai completamente il suo letto. Di queste tre forme di guarigione, nella sua lettera, Giacomo si rifà alla guarigione soprannaturale, basata sulla fede del malato. Da notare che il malato, prima di chiamare gli anziani, deve essere cosciente di non aver nessun peccato che non abbia confessato. Diversamente, il malato, dopo aver fatto un esame di coscienza, confesserà i peccati di cui è cosciente. Solo allora gli anziani, chiamati dal malato, ungeranno con olio l'infermo. Non mi sembra di poter avvalorare l'idea che siano gli anziani a prendere l'iniziativa di ungere il malato, a meno che da parte loro non vi sia una chiara convinzione da parte di Dio. Come non mi sembra che il metodo soprannaturale debba essere la norma, sono pienamente d'accordo con la seguente riflessione. Ogni guarigione è una guarigione divina. Nessun medico può affermare che le medicine o i rimedi guariscano. Essi contengono ciò che può risvegliare le forze vitali, insiste nel corpo umano. E dietro a queste forze vi è il Dio della vita, che solo dà salute. Egli, che è il creatore della vita, può ristabilire la vita nella sua piena forza. Se Dio sta dietro alla forza e la mette in funzione, si può dire tranquillamente che ogni forma di guarigione è da Dio e che noi possiamo decidere quali di queste forme egli debba usare. Nessun cristiano dovrebbe avere il coraggio di dire «Io non userò nessun mezzo», perché vorrebbe dire «Non voglio obbedire a Dio». Guardare a Dio solo e rifiutare ogni mezzo umano significa confinare Dio al soprannaturale ed escluderlo dal mondo naturale. Ma Dio non vuole che sia così, poiché ciò che noi chiamiamo mondo naturale è semplicemente un mezzo che Dio usa per manifestarsi. E questa è la maniera che Dio usa abitualmente, mentre la maniera soprannaturale è accidentale. E Dio deve decidere il mezzo che vuole usare, dato che è Lui che decide se vuole guarire o no. Proprio perché è Dio che decide il mezzo che vuole usare, ed è sempre Lui che decide se vuole guarire o no. Se sei malato, non ti precipitare in preghiera davanti a Dio per essere guarito. La prima cosa saggia da fare è quella di esaminare se vi sono errori dietetici, morali o spirituali nella tua vita. Se sei cosciente di vivere in armonia con te stesso, con il mondo, con il prossimo e con Dio, chiedi in preghiera a Dio di farti comprendere la sua volontà. La malattia è un momento molto particolare e importante. Essa serba per te delle benedizioni impensabili, di cui vale la pena appropriarsi, e dirai con Ezechia, che dirò? Egli mi ha parlato ed egli stesso ha fatto questo. Io camminerò lentamente durante tutti i miei anni nell'amarezza della mia anima. O Signore, mediante queste cose si vive e in tutte queste cose sta la vita del mio spirito. Febbraio 2002. Radio 2004. Ellero.